Ah, ci siamo, vai, prego, mettiti. Posto centrale. Dunque, visto l'orario, io inizierei, anche se... Dunque, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo sesto incontro promosso dalla nostra associazione. Quest'oggi abbiamo il piacere, il vero piacere, di ospitare il professor Carlo Lottieri, che da poco posso anche dire che è diventato un amico. Abbiamo fatto un po' tardi perché gli abbiamo fatto assaggiare un paio di delizie più o meno piacentine. Abbiamo insistito parecchio per poterlo avere questa sera qui con noi per sviluppare una tematica che a nostro modo di vedere è centrale. Dovrebbe essere centrale nel dibattito politico-culturale che interessa più o meno la nostra chiamiamola società. Fallimenti dello Stato e possibili alternative. Siamo tutti molto abili a denunciare i malfunzionamenti dello Stato, di questo impianto istituzionale che non è più in grado probabilmente di rispondere alle esigenze per le quali era nato. Col professor Lottieri cercheremo di capire quali sono gli scenari che abbiamo dinanzi a noi, quali esempi forse ci sono in giro da poter guardare, osservare e analizzare poi la storia che ci ha condotto sino a qui. Il professor Lottieri, presumo lo conosciate tutti, soprattutto è uno dei fondatori, mi preme sottolineare, dell'Istituto Bruno Leoni, che dal nostro punto di vista è un solido punto di riferimento culturale e intellettuale con il quale contiamo di poter collaborare anche in futuro per portare avanti iniziative anche nella nostra città. In particolare, ne parlavo prima con il professore, ne abbiamo già parlato nelle nostre riunioni interne a Vespero, vorremmo sviluppare nei prossimi mesi il progetto IBL nelle scuole per provare a diffondere il pensiero libertario, liberale, a tutti i livelli, non solo in queste serate molto piacevoli con i nostri amici, i nostri contatti, ma già nelle scuole. Io non mi dilungo oltre, ringrazio davvero tanto il professor Lottieri per averci garantito la sua presenza. Lascio la parola ora a Carlo che seguirà lo sviluppo della serata e vi ringrazio davvero per la partecipazione molto gradita. Grazie. Allora, io cercherò di andare su un brogliaccio, anche perché mi è stato chiesto da alcuni amici di poter anche diffondere i materiali della serata, quindi volevo seguire la traccia. L'unica cosa che dico, diciamo, a braccia, è che, come diceva il professor Bassani, cioè, il mondo avanza, cambia, eccetera, sulle spalle delle idee. Stasera abbiamo qui una figura importante nel pensiero, nel panorama intellettuale italiano, e pensiamo che appunto portarlo qui sia un'occasione eccellente per gli amici piacentini, soprattutto per gli amici liberali piacentini, ma sia un'occasione in ogni caso importante per chiunque in questo momento si renda conto di quelli che sono i limiti anche del nostro modo di vedere le cose, del nostro stare dentro a un sistema che ci accorgiamo è pesantemente in crisi, ma in cui siamo probabilmente prigionieri mentalmente prima ancora che nei fatti, che costretti dalla forza. Quindi è proprio un invito a far circolare a idee un po' fresche, idee che diano anche respiro appunto alla mente delle persone. Allora, io parto adesso con un promemoria. Allora, e parto con un riferimento a un articolo scritto anni fa dal professor Lottieri, che recensendo un testo di un anarchico canadese, se ricordo bene, scriveva questo: quanti vogliano allora affrontare Berkeley, penso che fosse il giusto, l'antropologo, esatto, quanti vogliano allora affrontare la sfida attuale e la dissoluzione dei paradigmi statuali, devono pensare a un superamento della violenza statuale, regolazione, tassazione, imperialismo, e non già a una dissoluzione della civiltà stessa. Sembra invece che le élite politiche, che nello Stato onnipotente hanno il proprio strumento e la propria legittimità, ben difficilmente accetteranno passivamente la dissoluzione del paradigma statalista. E questa è la mia personale impressione: giocheranno d'azzardo mettendo in posta la nostra civiltà pur di sopravvivere e continuare a disporre del surplus sociale. Un inciso di stretta attualità, l'azzardo dell'immigrazione incontrollata da civiltà altre quando non ostili, lo leggo appunto come un azzardo disperato attraverso cui mantenere la grande finzione attraverso la quale tutti cercano di vivere alle spalle di tutti gli altri. E quanto successe a fine dell'impero romano, quindi, se è già successo, potrebbe ricapitare. Stasera quindi approfitto della presenza dell'esimio professor Lottieri per chiedergli se come sia possibile abbandonare il paradigma dello Stato onnipotente e quali siano i paradigmi alternativi possibili, almeno quelli nel segno della libertà dell'uomo e dei limiti assoluti del potere dell'uomo sull'uomo. Quindi, posso chiederle di riassumere per sommi tratti, faccio una brevissima scaletta. Che cosa si intenda per paradigma statalista e quali siano invece le caratteristiche di un paradigma libertario? La seconda domanda, faccio subito, tanto sono tre e sono molto legate. Una precisazione infatti nell'ambito della prima domanda. Che rapporto c'è tra la civiltà occidentale e lo Stato moderno? Un destino, un accidente, una tappa? È una domanda appunto. La deriva dello Stato moderno, lo Stato onnipotente, può trasformarsi da strumento di conservazione a negazione delle basi della civiltà occidentale? E infine, dopo lo Stato, quali scenari, quali alternative? Penso che abbia... Una serie di domande, davvero... Se vuoi il microfono... Non semplice. Se non si sente... Non... Eccolo lì, perfetto, prova... Si sente? No. Sì? Sì, va bene, sentite? Sente anche si sente anche la allora... Non c'è bisogno forse, no? Si sente bene lo stesso, no? Allora, partirei dalla prima richiesta. Cosa si intende per paradigma statalista e quali siano le caratteristiche di un paradigma libertario? Allora, partirei anche dal titolo. Fallimenti di Stato evoca naturalmente un'altra formula molto più utilizzata che no... paradigmi di Stato che fallimenti di Stato che fallimenti di mercato. Nel nostro tempo raramente si parla di fallimenti di Stato, è corrente invece l'idea che il mercato fallisca e anzi si invoca costantemente lo Stato proprio perché il mercato fallisce. Perché il mercato fallisce? Perché non sa produrre sufficienza, perché c'è un problema di coordinamento, problemi di disuguaglianza. C'è un autore francese in gran voga in questo periodo, che si chiama Piketty, un economista francese, che sta cercando di spiegare al mondo come l'economia va da male perché le disuguaglianze crescenti delle società occidentali, che sarebbero, tra l'altro, conseguenza del capitalismo occidentale, creerebbero problemi anche di crescita, di sviluppo e così via. Bene, già riconoscere che ci sono dei fallimenti di mercato mi sembra una cosa importante. Siamo a un punto di partenza buono per questa serata. Noi sappiamo che il modello statuale, un modello che si è sviluppato alla fine del Medioevo e che si è imposto prima nell'Europa occidentale, in qualche area più specificamente come la Francia, la Spagna e poche altre, e poi però si è affermato in tutto il mondo, è stato diffuso in qualche modo ovunque nel mondo, è un paradigma, quello appunto dello Stato, che però ha conosciuto tutta una serie di evoluzioni, che è cambiato progressivamente nel corso dei secoli e che oggi si trova di fronte a una grande difficoltà. Non c'è dubbio che la struttura statuale, che piaccia o meno lo Stato, si trova oggi a fare i conti con una situazione molto compromessa. Come disse una volta il presidente Reagan, abbiamo la sensazione che lo Stato non sia in grado di risolvere i nostri problemi, ma che il problema sia lo Stato. Questa è una grande battuta. I presidenti americani da qualche decennio hanno dei formidabili ghostwriter che scrivono forme di questo tipo, e una delle migliori del presidente Reagan fu appunto questa. Per anni siamo convinti che lo Stato potesse risolvere i nostri problemi, ci siamo resi conto che il problema è lo Stato. Da cosa deriva tutto questo? Ma deriva appunto già nella formula che è stata utilizzata da Carlo, cioè dello Stato onnipotente, c'è già tanto, dalla pretesa, diciamo così, da parte di questa entità statuale che è nata, come dicevo prima, alla fine del Medioevo, di occuparsi di un numero crescente di settori. In qualche modo seguendo una logica molto coerente, no? non è che le cose avvengano dall'oggi al domani, le cose avvengono attraverso tutta una serie di passaggi, per cui lo Stato nasce inizialmente non già dall'impero e dal papato, che erano le due grandi figure del mondo medievale, ma da una figura molto meno significativa di quello scenario, cioè dai regni, e in particolare il regno francese, ma c'è un ruolo anche, alcuni studiosi sottolineano il ruolo dei normanni in Sicilia e così via. Queste entità intermedie, in un certo senso, non così rilevanti in precedenza, riescono a affermarsi attraverso un processo di espansione territoriale da un lato, matrimoni ma soprattutto guerre, e dall'altro lato attraverso una ridefinizione progressiva dei propri ruoli. E soprattutto il punto principale è la monopolizzazione della violenza, il monopolio della violenza. A un certo punto Luigi IX, ad esempio in Francia, proibisce il porto d'armi. Sembra una cosa per noi ovvia, ma non era assolutamente ovvia prima di allora. Lo Stato diventa l'unico attore in grado di dirimere i conflitti. Quindi, non so se qualcuno di voi si ricorda dai film o dai romanzi anche il problema dei duelli, ad esempio nella Francia dei moschettieri, all'inizio dei Tre Moschettieri c'è tutto questo problema dei duelli, c'è la proibizione di fare duelli. Per quale motivo? Perché era una risoluzione privata delle controversie. Certo, lo Stato ha il monopolio della violenza, lo Stato decide di fronte ai conflitti, uno non può risolvere i conflitti per i fatti propri. Allora, è un processo lungo, un processo che passa, passaggio cruciale evidentemente è la conquista del diritto. Per noi è ovvio che lo Stato faccia il diritto, no? Prima si parlava anche creando un po' di Keynes, un autore importante del Novecento, disse che lo Stato è diritto è lo Stato. In realtà per secoli e secoli le cose non andarono così. Nel Medioevo si distingueva tra iurisdizio e gubernaculum, cioè tra il diritto, diciamo così, la politica, per dirlo in termini contemporanei. E a un certo punto invece progressivamente, a partire dall'assolutismo, poi soprattutto con la codificazione, con la crescita della legislazione, il diritto diventa semplicemente una qualcosa che viene al potere. Il sovrano fa le leggi in qualche modo, e oggi il Parlamento sovrano fa le leggi, che poi sappiamo in realtà per lo più si tratta di un governo che fa decreti che poi vengono confermati in legge dalla propria maggioranza, insomma. È un processo che poi ovviamente a un certo punto ha a che fare con l'avvento della democrazia, con l'idea di nazione, quindi con una crescente collettivizzazione della sovranità, e che poi a partire da Bismarck, in Italia Giolitti, poi Mussolini, altri paesi, Roosevelt e così via, si dilata in tutti gli ambiti della sfera sociale. Nascono i diritti sociali. Ho fatto leggermente un librettino che ha un titolo carino, dico, posso permettermi di dire che è carino perché non è mio, perché è stato scelto appunto da... Chiedo a Sallusti proprio che mi ha suggerito la cosa: ogni diritto in più, una libertà in meno, e che è una cosa credo abbastanza corretta. Mi ha fatto piacere che abbia suggerito questa cosa. L'aumento dei diritti sociali ha comportato progressivamente il diminuire delle nostre libertà. Nel momento in cui dobbiamo finanziare qualunque cosa, tutto regolato, la scuola, fa piacere su una scuola privata, una scuola sottratta diciamo al moloch dell'insegnamento pubblico, ma in generale le cose non vanno così. Anche prima si diceva a tavola, con la famosa frase appunto che fa parte della storia della statualità in Italia: abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Fare gli italiani è un progetto appunto particolare di una classe politica che pretende di fare una popolazione, fare, rifare, riformulare. Ebbene, tutto questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto tutta una serie di difficoltà, e noi oggi siamo alla fine di un periodo terribile. In un certo senso potremmo leggere il Novecento come lo scontro tra due socialismi. Lo Stato alla fine si è configurato attraverso due forme di socialismo: il socialismo compiuto, il socialismo diciamo reale, detto il comunismo se volete, di scuola o leninista o maoista, ma insomma il paese socialismo realizzato, e le socialdemocrazie dei regimi cosiddetti democratico rappresentativi, le cosiddette liberal democrazie, che io chiamerei sempre, se non fosse una formula un po' complicata, mi rendo conto, liberal socialdemocrazie, perché voglio dire, però certamente è un po' scomodo da dirsi. Però è così, cioè loro sono crollati nell'89, perché lo Stato che pretendeva di fare i piani quinquennali, di controllare tutto, che toglieva gli incentivi alla popolazione, che toglieva il sistema dei prezzi, quindi le informazioni, che impediva la gestione locale, quindi Hayek, le conoscenze diffuse, eccetera, non poteva reggere. Un grande autore della tradizione liberale, di cui adesso è uscito il capolavoro in lingua italiana, è uscita una edizione vera perché l'edizione del 59 era orribile, cioè Ludwig von Mises, di cui è uscito appunto L'azione umana, già nel 1919, poi Saggio del 20, aveva profetizzato il fallimento del comunismo, ma non solo perché c'è un problema di incentivi, se tutto è dello Stato, lo diceva già Aristotele questo, di quello che è di tutti non si prende cura nessuno. No, Mises fa un'osservazione più acuta, dice, immaginiamo, perché per ora nel 19 non si era ancora visto molto, immaginiamo una società in cui tutto viene pianificato, in cui tutto è, i mezzi di produzione sono dello Stato, in cui non abbiamo quindi imprese che comprano e vendono, e quindi qui non abbiamo prezzi di mercato, come facciamo anche con le migliori intenzioni a gestire in maniera razionale un'impresa, un'attività, una famiglia, se non abbiamo questo ausilio cruciale che è dato dai prezzi. I prezzi, come dire, sono uno strumento di informazione fondamentale. In un saggio, un articolo, un migliore allievo di Mises, cioè Friedrich von Hayek, una volta fa l'esempio dei sacchetti di carta e dei sacchetti di canapa. Se io utilizzo dei sacchetti di canapa e a un certo punto, comprando il mio fornitore sacchetti di canapa che costano troppo, non so per quale motivo, se c'è una guerra, c'è un microbatterio che distrugge la canapa, non so per quale motivo c'è questo aumento dei prezzi, ma un problema evidentemente di scarsità, cioè nel rapporto fra domanda e offerta, io mi oriento su sacchetti di carta, quindi non vado a utilizzare, se posso sostituire in maniera adeguata i sacchetti di canapa di carta, mi comporto in maniera razionale, ma perché sono guidato dai prezzi. Se i prezzi rimanessero stabili in un sistema come di senza prezzi, continuerei, come dire, a utilizzare in maniera irrazionale una risorsa. Cioè, noi non ci rendiamo conto qual è il tipo di coordinamento che c'è nel sistema di mercato, ma la pianificazione invece ci fa vedere, diciamo dal punto di vista negativo. Allora, la critica di Mises era rivolta evidentemente ai sistemi pianificati, centralizzati. Ovviamente per tutti gli economisti dell'epoca, non solo per Mises, per tutti gli scienziati sociali, l'esperimento che nasceva nel 17 con il colpo di Stato, non rivoluzione, la rivoluzione era febbraio, il colpo di Stato d'ottobre-novembre, diciamo, da parte di Lenin, dei bolscevichi, era comunque interessante dal punto intellettuale. Un paese che viene a un certo punto gestito come una grande impresa, perché quella è l'idea. Invece che avere tante imprese, abbiamo una grande impresa che si chiama Russia, Unione Sovietica, e gestita. Ebbene, e Mises dice, questo fallisce. Fallisce perché non può... Allora, la lezione di Mises, aggiungerei anche quella di Hayek sul problema delle informazioni disperse, che ovviamente non possono essere utilizzate, centralizzate dal pianificatore, non vale forse anche per le socialdemocrazie? Ovviamente sì. Il fallimento delle socialdemocrazie arriverà semplicemente qualche decennio dopo, ma arriverà perché, come dire, la programmazione, la regolazione e così via, oltre al fatto che in molti casi abbiamo esattamente lo stesso sistema, in tanti ambiti abbiamo esattamente lo stesso sistema che c'è in Unione Sovietica, tutta una serie di ambiti nazionalizzati, noi siamo esattamente in un contesto, come dire, di socialismo reale. Però anche dove abbiamo un qualche sistema di mercato, il peso della regolazione, il peso della programmazione, eccetera, finiscono per produrre quella distruzione del sistema di mercato che ha portato al crollo, al fallimento dei sistemi sovietici. Quindi è un problema in un certo senso di tempo. E d'altro canto ci sono anche delle altre specificità. I nostri fallimenti sono ben chiari. Abbiamo un fallimento che fu profetizzato già da Pareto, quindi ancora prima di Mises, e che è legato al fatto che in un sistema democratico, ci spiega Pareto, nei suoi scritti di quando ancora faceva l'economista, prima di diventare politologo e poi sociologo, in un sistema democratico è del tutto evidente che di fronte alla possibilità di fare o non fare, spendere o non spendere, regolare o non regolare, il politico farà. Tendenzialmente. Per quale motivo, dice Pareto? Perché... lo spiega in maniera molto acuta e apre da lì tutta una serie di studi che si chiamano Public Choice, che hanno un grande successo in America, eccetera, perché lui dice ogni azione politica comporta costi e benefici, evidentemente, ci sono dei benefici e dei costi, faccio un ponte, qualcuno utilizza, poi dei costi, devo tassare. Però dice ci sono delle asimmetrie, dice ci sono tre asimmetrie tra costi e benefici che tendenzialmente spingeranno il politico a fare invece che non fare. Le simmetrie che evidenzia Pareto sono i costi sono posticipati e i benefici sono immediati, i costi sono visibili e i benefici invisibili, i costi sono invisibili e i benefici visibili, i costi sono diffusi e i benefici sono concentrati. Facciamo un esempio: se io devo aumentare di 1000 euro lo stipendio di 1000 funzionari della regione Lombardia o della regione Emilia-Romagna, vicino a Piacenza, i benefici sono visibili, perché immediatamente questi hanno 1000 euro ogni volta che c'è un bonifico sul loro conto corrente. Quindi sono visibili. Noi le imposte le paghiamo più delle volte in maniera invisibile, paghiamo le imposte con l'inflazione, paghiamo l'imposta con l'IVA, paghiamo l'imposta senza nemmeno vedere i soldi, perché tutti i lavoratori dipendenti, come me e come altri, non manco li vede al lordo, vede il netto direttamente, quindi non ha la percezione. C'è tutta una scienza della finanza che in larga misura serve proprio a rendere non visibile, non percepibile la tassazione. Quindi, mentre il ponte verrà inaugurato e i soldi che vengono dati verranno subito percepiti, i costi tendenzialmente non sono visibili. E poi dice, i benefici saranno immediati e i costi posticipati. Di cosa ci sta parlando Pareto? Gli stati si indebiteranno, ci dice, perché è molto razionale per il politico, invece che introdurre una tassa, introdurre un debito. E poi dice, i benefici sono concentrati e quindi rilevanti, 1000 persone hanno 1000 euro. I benefici saranno distribuiti tra 60 milioni di italiani, quindi tra qualche centesimo. Qualcuno di voi è disponibile a fare qualcosa per impedire una tassa su di lui di qualche centesimo? Figuriamoci, no? Assolutamente no. Solo che il sistema funziona sempre così. E Pareto dice, guardate che fondamentalmente arriveremo a una situazione di catastrofe. E 50 anni dopo, un po' di più, 60-70 anni dopo, due autori americani della stessa scuola, una scuola che si può far risalire per certi aspetti a Pareto, cioè Buchanan e Wagner, scriveranno un libro intitolato Democrazie in deficit. Allora l'idea è che le democrazie sono strutturalmente destinate a produrre deficit, perché è molto razionale per il politico, invece che tassare. Questo è il sistema statuale oggi. Il sistema statuale è un sistema di irresponsabilità illimitata. Non di responsabilità limitata, ma irresponsabilità illimitata. Perché in definitiva è, non per la cattiveria di questo e di quello, è nella, come dire, razionalità del politico seguire quello che fondamentalmente ho detto prima. E oltre a questo non dimentichiamoci che c'è stato un cambiamento culturale molto rilevante che ha portato ad esempio la nostra società a considerare l'uguaglianza come un valore assoluto a cui sacrificare tutto, sacrificare la libertà, la dignità, eccetera. Dicevo prima, Piketty è emblematico in questo senso, il filosofo più citato, più studiato, più rilevante, se vogliamo, della seconda metà del Novecento in America, ma forse tutto l'Occidente, è John Rawls, che è un teorico dell'uguaglianza, e da lì deriva tutto. Quindi questo è il modello statuale, che è un modello che sta creando una serie di fallimenti. Citavo prima il debito pubblico, ma un fallimento ancora più rilevante che ci riguarderà tutti, giovani o meno, in maniera diversa, ma in maniera ugualmente significativa, è il debito pensionistico. Il nostro sistema pensionistico è un sistema sovietico, fondamentalmente, ci abbiamo collettivizzato il sistema pensionistico e ovviamente andiamo contro esattamente i disastri di cui parlava Mises. Qual è il modello libertario? Il modello libertario è il modello, secondo me, di un'economia naturale, che è basata sul diritto e che è basata di una società, diciamo, naturale sul diritto, in cui ovviamente non esiste il doppio standard, mettiamola così. Lo Stato cosa fa? Ancora agli albori, ancora prima di arrivare a welfare state, è stato naturale. Lo Stato introduce due morali. Un autore che è un po' agli inizi della storia statuale, ma un autore importante, cioè Machiavelli, lo dice chiaramente. La virtù del principe consiste in imbrogliare, uccidere, tutte le cose peggiori, basta leggere il principe Machiavelli, si vede, no? Valentino che manda il suo collaboratore a Cesena perché Cesena è in rivolta, dice vai, fai tutto quello che devi fare, eccetera, quello fa tutto, uccide, in prigione, eccetera, e quando lui arriva lo fa uccidere sulla pubblica piazza in modo che la popolazione rimane soddisfatta e stupita, cioè da un lato contenta, spaventata e grata al tempo stesso, questo misto di, quindi è il cinismo che è esaltato Machiavelli. Tutta la statualità si basa su questa idea. Dicevo prima, Luigi IX impedisce il porto d'armi. Cosa vuol dire? Ci sono due tipi di umanità, gli uomini dello Stato e gli uomini non dello Stato. Io non posso evidentemente andare dal negoziante sotto casa mia e dirgli guarda che io, quando tu non sei lì, tengo d'occhio la tua mercanzia, la tua frutta, verdura, eccetera, e quindi tu devi darmi tutti i mesi 50 euro. Beh, si chiamerebbe ricatto, si chiamerebbe estorsione, eccetera. Ma fondamentalmente lo Stato agisce in questa maniera. Esistono alcune persone autorizzate a fare così. Avete visto tutti il padrino, no? Quando dice faccio un'offerta, a cui non puoi dire di no. Beh, esattamente, ogni legge, ogni tassa è un'offerta a cui non possiamo dire di no. Cioè quello che noi non accettiamo nei rapporti a privati lo accettiamo di fronte allo Stato. Lo Stato ha introdotto la doppia morale. C'è una morale per le persone comuni e poi c'è la virtù del principe che segue logiche tutte sue. La logica libertaria è quella di mettere in discussione la doppia morale. E credo che ognuno di noi in qualche modo, nonostante tutto, avverta un certo disagio di fronte alla doppia morale. Cioè di fronte al fatto che il mio vicino di casa, che non poteva dirmi niente fino a ieri, perché se... nel momento in cui diventa assessore impone le cose più incredibili solo perché, come diceva poi Gaetano Mosca, non è stato eletto, si è fatto eleggere, perché Mosca aveva, questo realista italiano che fino all'Ottocento aveva una formidabile espressione, siciliano, non siamo noi che dicono, non sono i cittadini che eleggono i politici, sono i politici che si fanno eleggere, cioè va capito che ovviamente il gioco politico è in larga misura nelle mani dei capi bastone, gli uomini di partito, i notabili, eccetera. Bene. Il modello libertario è questo, un modello basato sul superamento a doppia morale, sull'idea che chi non vuole lavorare neppure mangi, che è una formula appunto paolina, credo che sia una formula di grande saggezza che anche chi non si riconosce nella Chiesa Cattolica possa accettare, chi non vuole lavorare neppure mangi, e quindi sullo scambio, sulla proprietà, sul diritto alla fine. È l'idea che lo Stato è un sistema antigiuridico, perché è un sistema aggressivo nei riguardi della proprietà, della libertà iniziativa, così, e bisogna tornare al diritto. Mentre oggi noi siamo abituati a considerare diritto e Stato come sinonimi, la posizione libertaria è quella di un ritorno al diritto. È possibile questo? Poi vado avanti con la domanda, perché certo. Poi la lingua libertà. Allora, che rapporto c'è questo interessante? La civiltà occidentale è Stato moderno. Questa è una domanda complicatissima però, perché? Perché da un lato è chiaro che noi ovviamente siamo affezionati alla civiltà occidentale, a noi piace l'Occidente, ma non solo perché è il nostro mondo, il mondo è stato europeizzato non solo e non tanto dalle imprese coloniali, è stato colonizzato dalla forte attrattiva, dalla civiltà, dai valori che l'Occidente ha elaborato, che sono il risultato di tante cose, alcune cose molto belle, in questo senso l'avete Ratzinger quando parlava della radice greca, della radice cristiana, ebraica, e dal fatto che tutta una serie di cose sono imposte, i greci ci hanno dato l'idea di razionalità, di discorsività, di confronto, e dal cristianesimo, ancora più che dall'ebraismo, abbiamo preso l'idea di una dignità della persona che in altre civiltà non si trova facilmente. Quando, per chi crede o no, il cristianesimo dice l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio e siamo fratelli in Cristo, è chiaro che un certo tipo di mancanza di rispetto, di violenza e così via, in qualche modo nel tempo finiscono per essere messi seriamente in discussione. L'Occidente è qualcosa che a noi piace, qualcosa a cui difficilmente come possiamo rinunciare, ma che ruolo ha lo Stato? Io credo che l'Occidente è stato liberale nonostante lo Stato, questa è la mia convinzione. Io credo che l'Europa abbia vinto, perché la grande domanda, insomma, diceva anche Weber, varum nur in Occidente, perché sono in Occidente? Perché sono in Occidente un certo tipo di civiltà? Lui parlava del capitalismo, e le risposte sono altre diverse. La risposta che mi piace di più è quella di un autore che tra l'altro è stato mio professore a Parigi quando ancora facevo il dottorato, 25 anni fa, e di cui abbiamo tradotto questo libro sul tema come BL, che si chiama L'origine del capitalismo, Jean Bachelet. E la tesi di Jean Bachelet è una tesi ma geniale, lui dice perché l'Europa ha sviluppato il capitalismo e attraverso il capitalismo poi una certa idea dell'individuo, della civiltà, dei commerci, e quindi alla fine ha europeizzato il mondo. Perché se voi andate anche, che ne so, a Bijan o dove andate trovate un simile Occidente, un simile Europa, perché tutti vogliono, come dire, ovviamente avere un certo tipo di stile di vita e così via. E la tesi che da Bachelet è questa: l'epoca medievale era un'epoca molto particolare perché l'Europa era caratterizzata dal fatto di essere un'area con una certa coerenza, quindi era una grande area tutto sommato, dove le elite parlavano tutto il latino, dove c'erano degli ambiti di scambio, le università come ambito, già la povera università, dell'universo, il cambio culturale e i mercati, la fiera dello champagne, così via, come ambito di circolazione dei merci, eccetera, ma politicamente era divisa. Dice, quello che caratterizza l'Europa medievale rispetto alla Cina, lui è un comparativista soprattutto, rispetto ad altre aree del mondo, è che mentre le aree del mondo avevano una struttura piramidale, gerarchica, centralizzata, in Europa avevamo due entità, le prime evocate, che tentarono di realizzare questa unità, soprattutto l'impero, che in parte il papato, ma il papato giocò soprattutto come forza di, per evitare che l'altro vincesse, non pensava di poter vincere, ma sperava che l'altro non vincesse, fece di tutto, Canossa, queste vicende, eccetera, e l'impero non riuscì mai. Quando ero bambino mi ricordo che studiavo sui libri elementari delle medie e mi raffiguravano cosa che si dovrebbe fare, secondo me, l'Europa con l'impero, poi mettevo una filigrana con tutto lo stesso colore, e poi però leggiavo la pagina e dicevo, l'imperatore Federico Barbarossa arriva in Italia del Nord e perde contro Lodi, non so bene, qualche cittadina, Piacenza, eccetera. Dico, mamma mia, questo imperatore ha tutto questo colore, c'era tutta questa parte d'Europa. Non era vero, ovviamente, non bisogna mai dipingere, raffigurare l'Europa medievale con le nostre logiche, cioè conformandola. Era un casino l'Europa da allora, cioè l'imperatore era un feudatario tra gli altri che aveva una certa autorevolezza, ma che non controllava, non aveva capacità di tassazione, non aveva una struttura burocratica, non aveva un controllo della realtà. Pensate che perfino nel 400, quindi siamo già molto avanti, c'è il caso molto bello di cui parla un autore austriaco, Terra e Potere, si chiama questo libro, di Federico III, che presta i soldi a un feudatario, a un grosso feudatario, e questo qua gli dà, perché deve fare una guerra. Questo dopo un po' di tempo, la guerra fatta, eccetera, chiede all'istituzione dei soldi, l'imperatore fa finta di niente. Gli richiede una seconda volta e quello continua a far finta di niente, a che questo Otto von Buchheim, questo feudatario, si rivolge al re di Boemia, che nella struttura un po' complicata era autorevole rispetto a lui, insomma, e dice, scusa, potresti dire all'imperatore se magari sai quei soldi che va, se me li ridà, così gli farebbe molto piacere. E questo indubbiamente svolge il proprio ruolo, non succede nulla. Che cosa fa Gerd von Buchheim? Informa i feudatari del suo livello, di quello che è successo, e questi sono non titolati con un diritto, ma obbligati dal diritto feudale dell'epoca, era il diritto vigente nell'universo medievale, a fare guerra all'imperatore. E non è una rivoluzione, è una battaglia per il diritto, perché l'imperatore non ha la capacità di non tener fede alle proprie parole, deve rispondere al diritto esattamente come devono rispondere al diritto tutti. Capite in che ordine eravamo? Eravamo un sistema, non siamo più abituati a pensare questo, perché abbiamo la nozione di sovranità, tutte cose che sono venute dopo. L'imperatore non era sovrano, era un feudatario dagli altri. Nella mia delle ipotesi era primum inter pares, no? Voglio dire, l'immagine a tavola rotonda è una tipica immagine medievale, no? Una tavola rotonda perché nessuno è capo tavola, perché nessuno ha questa forza. Ebbene, io sono convinto che l'Europa è diventata grande perché era dispersa. Non a caso il centro dell'Europa era qua. Era qua e, se vogliamo, nelle Fiandre, ecco, cioè era nelle aree a maggiore localismo, dove Venezia era Venezia, Genova era Genova, Siena era Siena, Firenze era Firenze, Piacenza e così via, dove c'era la massima responsabilizzazione, la massima concorrenza istituzionale, e ognuno cercava ovviamente di allearsi, competere, eccetera, ma c'era un grandissimo dinamismo. La tesi di Bachelard è questa. Se la tesi di Bachelard è questa, credo che sia convincente. Nessuno ha monopolizzato il potere, quindi c'era grande libertà per i mercanti, per le idee, per il capitalismo. Il capitalismo è esploso perché il potere non controllava. E lo Stato probabilmente ha frenato, ha ritardato il successo capitalistico. La vera domanda è: che tipo di capitalismo, che tipo di civiltà avremmo avuto se ci fossimo evitati lo Stato? Perché noi abbiamo, tra l'altro, una parte della storia moderna che è interessante, che è quella del secondo modello, perché per un certo periodo abbiamo avuto un secondo modello, che è il modello, diciamo, delle forme ancora pattizie di origine medievale e forme federali, in realtà come società anseatiche, le province unite, la Svizzera era un paese montanari, ma insomma comunque fa parte di questa realtà, era una realtà di grandissimo successo. Un autore per me fondamentale come John Locke scrive i due trattati con la civile quando si ritira in Olanda, perché è il paese più tollerante, dove girano più idee, perché può dire quello che vuole, scrive quello che vuole. e Spinoza e la grande pittura olandese, eccetera. Cioè l'Olanda era davvero il centro del mondo, anche perché era una logica mercantile capitalistica e una logica sovrana mercantilista, come appunto poteva essere la Francia e così via. Quindi io credo che a questa domanda, destino accidente tappa, ostacolo forse, ecco, la civiltà occidentale è tale a dispetto dello Stato e contro anche lo Stato. Quando noi pensiamo ai valori occidentali, la libertà, la dignità, eccetera, e pensiamo allo Stato, pensiamo a qualcosa che storicamente questi valori in un modo o nell'altro li ha negati. Quando noi vogliamo guardare lo Stato, a me capita a lezione di usare un libro interessante di un autore che la pensa molto diversamente da me, si chiama Gianfranco Poggi, che è un sociologo, il libro che chiama Lo Stato, però alcune cose che dice sono sensate, e quando lui dice vogliamo vedere lo Stato nella sua più compiuta, dobbiamo guardare lo Stato totalitario, che arriva fino in fondo, lo Stato partito, che sia lo Stato staliniano o quello hitleriano. Quindi a questa seconda domanda risponderei così. Dopodiché, la deriva stato moderno, lo stato onnipotente dell'Italia, può trasformarsi a strumento di conservazione, a negazione delle basi della civiltà occidentale? Cioè, questo stato moderno, che è onnipotente, certamente sta minando tutto. Io ne sono convinto. E sono convinto che, un po' come è successo in Unione Sovietica, sta minando i capitali da tutti i punti di vista. Quello a cui stiamo assistendo è un'erosione progressiva dei capitali. Quello che caratterizzava l'Unione Sovietica è che nessuno più teneva in ordine i palazzi perché non c'erano più soldi, perché c'è una progressiva deresponsabilizzazione, ma c'è anche, come dire, una decivilizzazione nei comportamenti, io credo. Le logiche di Stato sono sempre più logiche opportunistiche di breve periodo. Che senso ha risparmiare quando non sappiamo che destino farà la moneta, ad esempio? Il Novecento è stata un'epoca di grandi inflazioni, c'è il caso della Germania del 23, ma poi mille altri, voglio dire, nelle bancarelle ancora oggi noi possiamo trovare i buoni del tesoro emessi, non so, nel 38, che nessuno è andato più a ritirare, perché dopo la guerra ti costava di più il biglietto dell'autobus a Milano che non gli interessi che ti avrebbero dato e così via. E pensate che recentemente ho letto che 10.000 lire mie coetanee, cioè del 60, attualizzate, varrebbero una cosa come 100 euro. È difficile attualizzare naturalmente perché non c'erano i computer allora, quanti computer, no, però se uno prende certi beni, la benzina, gli stipendi, immobili, eccetera, ha tutta una serie di riferimenti. 10.000 lire attualizzate hanno una capacità d'acquisto di 100 euro. Sapete quanto ci avrebbero dato se fossimo andati alla sede della Banca di Piacenza nel 2010, che era l'ultimo momento? 5 euro. Quindi vuol dire che l'inflazione, senza guerre, senza crisi del 23 e così via, ha tolto il 95%. Allora, in questo caso, chi risparmia? Nessuno. Cioè, non è ragionevole risparmiare. Si vive nel presente, che poi è la tesi di famosa espressione di John Maynard Keynes, il più influente economista del Novecento. Nel lungo periodo sono tutti morti, e quindi per quale motivo dobbiamo preoccuparci a lungo periodo? In fondo la denatalità anche fa parte di questo, no? Non c'è un progetto, non c'è una... si vive tutti per sé e finché si riesce appunto a... Quindi c'è indubbiamente un problema di negazione delle basi della civiltà occidentale. Credo anche che gli ha dei valori che uno può avere, eccetera. Il progressivo allontanarsi dalla società europea da ogni riferimento di tipo religioso, eccetera, anche questo probabilmente comporta qualcosa. Credo che tutto sommato non si dice troppo, ma una delle differenze che ancora rimangono tra i due lati del mondo occidentale sia anche legata al fatto che gli americani sono tendenzialmente più cristiani degli europei, sono rimasti tutto so, anche perché hanno avuto tra l'altro una concorrenza interessante tra chiese, hanno avuto un sistema molto concorrenziale, molto vivo, eccetera, laddove invece in Europa per varie ragioni, soprattutto a partire dalla pace d'Augusto e così via, si è deciso la religione del principe, la religione di tutti, e quindi si è chiuso il sistema in questa maniera, con il risultato che nei paesi cattolici anche, ma nei paesi protestanti addirittura c'è stata proprio la fine di ogni... D'altronde è anche difficile credere a un Dio quando il tuo rappresentante è un ministro, cioè perché diventava una chiesa di Stato in mano a un ministro. Quindi credo che indubbiamente c'è una deriva dello Stato moderno che alla fine si accompagna anche al declino della civiltà occidentale. Detto questo, non sappiamo nulla del futuro, cioè non voglio dare una rappresentazione molto o troppo pessimistica. Il futuro è aperto e c'è un dato forse di ottimismo che dovremmo cogliere, cioè che in definitiva esistono anche dei meccanismi di selezione tra modelli, e tendenzialmente le persone sono portate, magari senza capirlo, magari con una forte contraddizione rispetto ai loro principi professati, ma andare verso le realtà in cui trovano una soddisfazione maggiore delle proprie esigenze. Io ho conosciuto nella mia vita tantissimi antioccidentali che se andavano poi in America perché avevano delle opportunità, e poi mi tornavano a casa con idee un po' diverse, ma effettivamente un po' di idee, ti credo, perché prima c'avevi... Alcuni sono anche famosi, li vediamo in televisione, fanno gli economisti, econometristi, eccetera. Vuol dire. E quindi la gente va dove trova più opportunità. Allora, in questo mondo in cui esistono i voli low cost, in cui esiste il telelavoro, in cui, come dire, il gregge non è più un qualcosa che ogni Stato tiene al proprio interno, come poteva fare una volta, perché tutto è molto più mobile, l'inglese diventa una lingua che... quasi tutti capiscono nel mondo, cioè capiscono tutti meno gli inglesi e gli americani, perché in realtà è un broken English quello che tutti parlano, e quindi gli americani non capiscono che lingua sia, ma tutti gli altri invece si capiscono nel mondo abbastanza bene. In questa maniera la strategia di exit, cioè io lascio questo paese perché non va bene, vado in un altro, alla fine qualche conseguenza può produrla. Io quello che spero è che qualche isola qua e là riemerga. Prima tu tra le righe evocavi la fine dell'impero romano, dopo la fine dell'impero romano ci sono dei luoghi che magari sono i monasteri, che sono le città, che questo e quello, in cui un po' alla volta si dice, ma questi erano i libri si leggevano, si scrivevano, e si ricomincia un po' alla volta nei secoli a ricostruire. Io credo che con tempi molto diversi, perché i nostri sono tempi diversi, tempi anche come velocità, non solo come epoche, credo che qualcosa di simile possa succedere. Gli stati sono in grande difficoltà, la connessione moneta, stato, welfare, regolazione è micidiale, no? Sta producendo delle... Però chi lo sa, le cose possono appunto cambiare. Questa è già in fondo l'ultima domanda, dopo lo Stato quali scenari, quali alternative? Io credo che gli scenari possono essere tantissimi, e sinceramente non lo so quello che può succedere, però l'alternativa credo che sia il diritto, ecco, io risponderei così. L'alternativa allo Stato è il diritto. Lo Stato è stato la negazione del diritto. Io sono convinto di questo, sono convinto che lo Stato sia strutturalmente antigiuridico. Credo che si debba tornare al diritto, si debba abbandonare la doppia morale, abbandonare l'idea che qualcuno, perché è un pubblicano, può disporre dei nostri soldi, mentre invece noi non possiamo disporre di quelli degli altri. Abbandonare l'idea che ci sono dei beni pubblici, quando tutte le teorie dei beni pubblici sono arrivate fragilissime, non ci sono beni pubblici, a partire dalla difesa. Andate a spiegare ai curdi, ad esempio, che la difesa turca è un bene pubblico per loro. Non è un bene pubblico, gli diranno assolutamente, vorremmo eliminarla domani, perché è un sistema di oppressione. Cioè oppure andate a spiegare semplicemente anche a un pacifista di Piacenza che la difesa è un bene pubblico. Quando dice, come usano i miei soldi per comprare delle armi. Io lo rispetto, anche se non sono un pacifista. Per quale motivo dobbiamo usare i soldi di questa persona? Per quale motivo dobbiamo usare i soldi di un vegano per finanziare degli allevamenti di vacche? Non lo faremo, no? Tra privati. Non sembra una cosa giusta estorcere i soldi per finanziare. Allora, per quale motivo dobbiamo pensare che lo Stato, la classe politica, sia in grado di individuare dei beni collettivi e che tutti debbano essere costretti a finanziare questi beni collettivi, perfino quando si chiamano Rai TV? Questa è una cosa davvero, davvero bizzarra, perché perfino Rai TV rientrerebbe appunto nei beni pubblici. Credo che le contraddizioni, a mio parere, possono emergere. E credo che un fenomeno importante, su questo davvero chiudo, un fenomeno importante che potrebbe avere conseguenze rilevanti in prospettiva, se non già solo quello della mobilità delle persone, che ho fatto riferimento prima, ma la mobilità dei territori, che è un argomento che mi sta molto a cuore, perché io sono un fautore della disaggregazione dell'Italia, ma se guardo all'Europa appunto del secolo fa, io vedo che ci sono molti meno colori rispetto ad oggi, riprendendo l'immagine di prima, no? Del colore dell'Europa di Federico Barbarossa. L'Europa di primo Novecento era un'Europa in cui c'erano grandi imperi e in fondo poche realtà, pochi sovrani, poche repubbliche. Quello che è successo è che abbiamo avuto un moltiplicarsi delle frontiere, e quello che sta succedendo è che la democrazia in un certo senso ha posto delle premesse per lo Stato democratico, per la costante messa in discussione di se stesso in un certo senso, perché quando osserviamo da vicino quello che sta succedendo in Spagna, precisamente in Catalogna, lì il dibattito è molto interessante, perché abbiamo un potere a Madrid che dice: io sono legittimo perché mi baso sul popolo, e cioè sul voto, sulla democrazia. In Catalogna abbiamo della gente che dice: è esattamente quello che vogliamo noi, fateci votare. Voi su cosa vi reggete? Che cosa vi legittima nel sottrarci il 50% di risorse, nell'imporci queste regole, eccetera, eccetera? Il voto. Bene, quello che chiediamo noi è il voto. E come si fa in società come le nostre, che hanno costruito tutto in qualche modo attorno al voto, a negare per un lungo periodo il voto a una popolazione che crede, che chiede di staccarsi? Non è un caso che nel mondo anglosassone, che spesso è un pochino, come dire, più all'avanguardia rispetto appunto al resto dell'Occidente, si è già votato due volte in Quebec, hanno votato in Scozia, voteranno per la Brexit, perché si rendono conto che la logica dei nostri ordinamenti, una logica che si regge sul voto, e non è possibile opporre, diciamo, un no in nome della nazione a qualcuno che dice: va bene, se tu dici che siamo una nazione te lo dimostreremo nel voto, perché la gente voterà e dirà di no. Ma se invece la gente voterà maggioritariamente per il sì, vorrà dire che i catalani si riconoscono più nella nazione catalana che non in quella spagnola. Quello che sta succedendo lì a cosa potrebbe preludere? Potrebbe preludere, perché la Scozia è un voto importante, al di là del risultato, quello che dicevo sulla Scozia è che non mi interessa come va a finire. Quello che io so in Scozia è che la Scozia è libera, perché la Scozia sta dentro, sta fuori, sulla base della sua decisione, quindi di fatto è libera. Ovviamente poi va dove vuole, ma è giusto, non mica devo stare libero. Quello che invece, ma là è un mondo diverso, perché è un mondo, se invece succedesse questo, e secondo me succederà in Spagna, beh, allora è proprio uno Stato come il nostro che va in discussione, come quello francese. L'articolo 2 della Costituzione è come il nostro articolo 5, formula giacobina, uno indivisibile. E loro addirittura hanno un articolo 10 dove si parla del ricorso all'esercito nel caso in cui, ecco, se in Spagna, come io sono convinto, si arriverà all'indipendenza della Catalogna, al voto, beh, allora avremo un'altra Europa, e quello che io spero sarà un'Europa più vicina a quella che ha generato il capitalismo e la civiltà rispetto a quella che successivamente l'ha frenato. Mi fermo lei. Ti ringrazio intanto per l'esauriente intervento. Mi permetto soltanto di piccole considerazioni stimolate peraltro dall'intervento. La crisi dello Stato. Non penso che non sia emersa molto, ma un elemento importante, cioè lo Stato perché è stato una risposta vincente in Europa per dei secoli? Perché ha funzionato su due piani fondamentali: una macchina da guerra invincibile e una macchina di pacificazione interna irresistibile, con delle estremizzazioni che abbiamo visto nel Novecento di questo appunto modello. Però è stato questo il suo punto di forza, cioè non si è imposto come idea, si è alimentato fortemente di idee, ma alla fine gli stati si sono imposti con la forza, spesso sulle popolazioni interne, eccetera, senza problemi da questo punto di vista. Mi sembra che un elemento di crisi fortissimo sia stato le guerre europee del Novecento, perché sulle guerre europee del Novecento è andato in crisi l'idea vincente dello Stato-nazione concepito come l'abbiamo concepito in Europa, come modello vincente. Di fatto, se c'è un qualcosa che ci rendiamo conto tutti, senza andare a Suez, come parlavamo prima a cena, è che i singoli stati nazionali, negli scenari, nelle proiezioni che ci sono, delle minacce, eccetera, sono sostanzialmente, lasciami dire, degli attori irrilevanti, ormai irrilevanti. E questo è sicuramente un elemento che va a invalidare la legittimità degli stati. Penso sia un elemento che sia stato percepito fortissimamente dagli europei, ma oggettivamente con la sconfitta, con il disastro dell'ultima guerra. Penso che quindi questo sia importante. E l'altro elemento è la pacificazione. Cioè, pacificazione attraverso la forza, le deportazioni, la religione legata al sovrano, perché questo è stato il modello di pacificazione interno, il monopolio della forza, eccetera, eccetera. Quindi questi sono stati i due elementi forti dello Stato. Uno è palesemente in crisi. L'elemento di pacificazione mi sembra che stia scricchiolando. Le società europee, nonostante il welfare, le spese immense che si stanno facendo, mi sembra che siano profondamente in tossicodipendenza da welfare, un welfare che non è sostenibile se non appunto barando sulla moneta, inventandosi risorse che non ci sono, indebitandosi, ma di fatto mostrando una insostenibilità, quello che dicevate prima del sistema pensionistico. Quindi se falliscono questi stati sul fattore interno come sulla loro giustificazione, sembra evidente che siamo di fronte a una crisi epocale su cui le uscite possono essere sicuramente territoriali, come nel recupero del diritto. Non sono ottimista perché penso che uno si stacchi le sanguisughe si staccano dal corpo quando sono costrette a farlo, e non sono costrette a parole ma in condizioni estreme, in genere addirittura a volte quando hanno finito il sangue della vittima. Quindi da questo punto di vista non vedo così facile, anche per l'intossicazione culturale che abbiamo subito. Penso di non essere cieco, ma un po' di nostalgia dello Stato. Lasciami dire nostalgia. Dopo generazioni in cui siamo cresciuti nel culto dello Stato, dei valori legati allo Stato, della gente che andava a morire per lo Stato, perché tu hai parlato delle tasse quando hai parlato appunto di quello che chiedeva gli Stati, ma fino all'altro ieri gli Stati chiedevano il sangue, ne hanno chiesto parecchio per guerre, non stiamo a giudicarle poi anche da un punto di vista utilitaristico, non dico altro, ma ecco, su questo mi sembra che siano elementi profondi di debolezza oggettiva. E da questo punto, parlavamo anche prima, l'Europa era sembrata una risposta per delle generazioni a questa crisi degli stati nazionali, tanto è che qualcuno vedeva i localismi in un quadro europeo con gli stati nazionali che perdevano, si liquefavano un po' rispetto. Però mi sembra che sia un modello questo di profondamente in crisi. Crisi l'Europa, gli stati stanno cercando scaricano sull'Europa le proprie responsabilità e i propri disastri, e le persone sono estremamente confuse su questo. Poi parto quest'ultima cosa, che stati, Europa, regioni. Allora, l'Europa è una costruzione degli stati, cominciamo a dire. Certo. Per cui togliamoci dalla testa l'idea che sia possibile, diciamo, una crescita dell'autonomia e della responsabilità a dispetto degli stati. Qualche dato banale: noi non avevamo titoli per entrare, certo, in Europa, il Portogallo li aveva. Perché? Perché si è migliorato il 60%, eccetera. Perché non è una prova di economie, non è le società che si univano, erano gli stati che si univano, ovviamente. E siccome uno stato era indebitato, indubbiamente non sarebbe dovuto entrare perché non aveva il cartello. Cioè, è un cartello di stati l'Europa, ovviamente, perché di fronte a un processo di globalizzazione anche dell'economia, una delle ipotesi che le classi politiche nazionali hanno immaginato, soprattutto i francesi, è stata quella di immaginare un trasferimento da Parigi a Bruxelles, in modo tale che la mobilità dei fattori non comportasse l'uscita, diciamo, del gregge. Prima dicevo questa immagine del gregge, no? Bisogna tenere un recinto, ma a un certo punto, per ragioni molto evidenti, si crea un mercato europeo, ed è una bella cosa per pacificare. Allora bisogna però, come contrappeso per le classi politiche, immaginare questa prospettiva degli stati europei. No, l'Europa è nemica dell'autogoverno, delle piccole comunità. Lo si è visto anche di fronte alla vicenda scozzese, lo si vede di fronte alla vicenda catalana. L'Europa è un cartello di stati e tutti sono lì a puntellarsi l'un con l'altro perché ognuno sa di avere dei problemi in casa. I francesi hanno la Corsica, il Belgio c'è il problema dell'evaporazione tra Fiandre e Vallonia e così via. L'Italia si sa che, come diceva Proudhon, è per natura federale, solo che non esiste, insomma, bisogna farlo gli italiani, eccetera. Per cui questa è una cosa, cioè, l'Europa è un tentativo di trasferire a livello continentale logica dello Stato e di immaginare contro la storia, le lingue e le culture una sorta di Stato europeo. Quando è stata formulata questa idea degli Stati Uniti d'Europa, si voleva appunto immaginare uno Stato europeo sul modello di quello americano. L'idea è molto chiara. Per quello che riguarda i parassiti e le resistenze di fronte, sì, si faranno di tutto. E al tempo stesso, tu stesso cosa hai detto? Che oggi le classi politiche sono in condizione di chiedere risorse, come mai in passato, si facevano rivolte fiscali a livelli di tassazione molto, molto, molto inferiori, ma non sono in condizione di chiedere il sangue. Nessuno è disposto a uccidere, nessuno è disposto a farsi uccidere. Sembra che nemmeno l'Hidalgo spagnolo si è disposto a tanto, con tutto che c'è una tradizione di nazionalismo molto forte. Io sono convinto che se, cosa che spero molto peraltro, nei prossimi anni la regione Veneto dichiarasse l'indipendenza e dicesse è nata la terza repubblica serenissima, dopo quella ovviamente dei 10 secoli, dopo quella solo di un anno di Daniele Manin, a Roma prenderebbero atto. Non manderebbero i carri armati, non è nella cultura, nella logica delle nostre popolazioni, di questo tempo, eccetera, di fare una cosa di questo tipo. Non piacerebbe, la cosa farebbero di tutto, probabilmente farebbero trovare fotografie dell'amante, del presidente o qualcosa a stile marrazzo, mangerebbero tutte le cose, però la cosa finirebbe poi lì, insomma, cioè non manderebbero l'esercito, ecco, di questo sono convinto. Non vedo, diciamo, i Lagunari o San Marco, eccetera, in azione a Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale, appunto, Veneto. No, quindi credo che siamo in un contesto in cui davvero quello che conta è il consenso. Se per qualche motivo in una situazione di crisi ci fosse una realtà regionale o cittadina che dice basta, qua le cose non vanno, crolla tutto, io mi occupo della popolazione, è stata una bella avventura, però voglio dire, in una società, come dire, che ha accettato la distruzione della famiglia, perché i rapporti tra persone si basano ovviamente solo sulla volontarietà, separazione, divorzio, eh? Figuratevi se non si accetta l'idea del fatto che qualcuno dice, tipo i tirolesi, mi dispiace, guardate, ci ho messo 50 anni, 100 anni per l'italiano, ma non ho mai imparato bene e quindi preferisco essere tirolese austriaco, cioè, o se i veneti dicono, sai, sapete, voi avete un anno e mezzo di storia, noi ne abbiamo 11 secoli, poi vi ricordate la storia del 1866 come è andata, no? Il Veneto è stato preso dall'Austria, dalla Francia, che l'ha passato all'Italia. Sono usciti manifesti in cui il Veneto era italiano 2 giorni prima del plebiscito. Prima sono usciti manifesti in cui si diceva che il Veneto era italiano e poi infatti i plebisciti. Se andate a vedere le lapidi che ci sono a Treviso, in tante parti d'Italia, mi mette da ridere, perché non è possibile un plebiscito in cui sì, 23.492, no 2. Se qualcuno su questa statistica, esiste l'errore statistico, quando si vota a questi numeri non è possibile che c'è almeno qualcuno che sbaglia. Allora, è tutta una truffa evidentemente, cioè tutta la nostra storia, voglio dire, si basa su episodi di questo tipo, ma se a un certo punto qualcuno dicesse no, mi dispiace, questa è una società comunque che si regge alla fine sul consenso. La retorica dei 5 Stelle è interessante in questo senso, un partito pazzesco perché è stato inventato da questo signore, poveretto, che è morto 2 giorni fa, quindi un partito totalmente verticistico, ma la retorica qual è? La gente deve decidere, tutto deve essere deciso direttamente, ci sono le primarie, le deputatarie, non so come le chiamano quelle per, e così via, e figuratevi se in questa società oggi alle nuove generazioni dite no, non si può votare perché è stato stabilito illo tempore che questo territorio dovrà stare per sempre, perché secondo la dottrina dello Stato moderno c'è una condizione perpetua all'interno, non dico, no, non è più possibile. Quindi io credo davvero che questo è un punto interessante su cui si debba giocare, perché è un'opzione di scelta, è una cosa che può muovere lo scenario. E certamente è quello che oggi viene alla luce. Tu parlavi prima giustamente di come lo Stato si è affermato. Lo Stato si è affermato come soggetto di guerra verso l'esterno e pacificazione verso l'interno. Questo è tipicamente il modello hobbesiano, che ex post, perché prima c'è lo Stato, poi ci sono quelli che ne parlano, il teorizzatore però, quello che ha canonizzato il modello, però era un modello che non teneva, era contraddittorio, perché era un modello che diceva: noi in stato di natura ci facciamo la guerra. Sarà vero, sarà falso, sono molto scettico al riguardo, ma comunque questa è la sua tesi. Abbiamo bisogno di rinunciare a tutte le nostre libertà per dare, come dire, tutti i nostri poteri, i nostri diritti in mano a un signore che in questa maniera pacifica. Non si capisce poi a questo punto questa persona perché andrebbe a distruggerci tutto e magari mandarci in un gulag o in un lager. Poi di fatto è successo, ma insomma rinunciamo a tutti i diritti e li diamo a questo signore. Però il contesto all'interno del quale Leviatano si muove è un contesto di stato di natura. Questo era il paradosso di Hobbes. Il paradosso di Hobbes è che c'era la pacificazione interna attraverso la statualità e il disordine esterno. E in questo senso l'Unione Europea, la teorizzazione di Kant sulla pace perpetua, cioè l'idea di un governo mondiale e così via, sono la razionalizzazione del modello di Hobbes. Se gli uomini o le comunità in stato di natura, cioè in condizioni di libertà, necessariamente si fanno la guerra, l'unica soluzione è un governo mondiale, che però, attenzione, è lo scenario della maggior parte delle distopie, cioè della maggior parte delle utopie negative. Quando leggiamo i romanzi in cui in un mondo del futuro eccetera c'è un dittatore terribile, è un unico governo, non c'è alternativa. Quello che io credo, quello in cui io credo, è che invece che avere nostalgia dello Stato, dobbiamo avere nostalgia di quello che c'era prima dello Stato. Nostalgia degli ordinamenti prestatuali, prenazionali, nostalgia della complessità di quegli ordinamenti, del carattere, come dire, molto più flessibile. Io, ad esempio, ho finito adesso di scrivere un libro sulla Svizzera, che mi appassiona un po' perché ho studiato lì un anno e mezzo, un po' perché insegno lì, ma soprattutto perché la Svizzera è una realtà di grandissimo successo oggettivamente. Pensate che leggevo recentemente che il reddito medio, lo stipendio medio, non il reddito, lo stipendio medio di uno svizzero è 6.000 franchi. Stipendio medio. Pensate che sono 65.000 frontalieri, vero, Varese, Como, eccetera, e uno dei grandi problemi degli ultimi mesi, ultimi anni, è che ci sono delle cassiere che vengono da Varese che accettano stipendi di solo 3.000 euro. Cassiere. Il che però è un problema grosso per i sindacati locali, perché se quello è un prezzo che per un ticinese diventa complicatissimo vivere con 3.000 euro, cioè fai fatica a vivere. Cioè, cosa è successo in questi anni? Si è talmente allontanato il livello della Svizzera nell'Italia che i frontalieri sono disposti a accettare stipendi molto bassi, creando quindi anche delle tensioni, eccetera. La Svizzera mi appassiona perché è una realtà di grande successo e mi sono chiesto in questi anni come mai è grande successo. E la risposta che ho trovato, non è mia, tra tanti autori, è una cosa ormai molto consolidata, è che in realtà è una realtà di grande successo perché meno di altre, per tutta una serie di ragioni storiche, ma non ultime geografiche, ha resistito di fronte al modello statuale. Ha adottato più tardi, in maniera molto più limitata, il modello statuale. Pensate che fino alla federazione, all'unificazione, che del 1848, il sistema federale svizzero, un sistema che oggi noi diremmo a geometria variabile, cioè c'erano delle comunità facendo gli accordi con quello con quello. Non è che io ero convinto nel passato che fosse una confederazione, cioè tutti avessero dei legami con il centro, tenui, che tutti potessero andarsene via, una confederazione come la faremmo noi oggi se dovessimo confederare delle comunità. No, lì invece era la somma di accordi, di legami, di patti che si erano sviluppati uno sull'altro nel tempo ed era un'area fondamentalmente. Era un'area di comunità che si accordavano quando dovevano accordarsi, sulle cose potevano accordarsi, esattamente come fanno gli individui, le famiglie e le imprese quando hanno rapporti fra di loro. Allora credo che più che avere nostalgia dello Stato si debba pensare soprattutto in una realtà come quella del centro-nord, che ha conosciuto l'esperienza dei comuni e che continua a avere questo forte radicamento localista, eccetera, a quel modello, anche perché il grande problema dello Stato, come dicevo prima, è il problema della responsabilità. Il nostro sistema è un sistema in cui, tanto per fare esempi molto banali, in Lombardia negli anni scorsi sono esplosi i bocciodromi, non so se anche in Emilia c'è pieno di bocciodromi, ma in Lombardia ce n'è una marea. E per quale motivo? Perché hanno fatto a questo punto una legge, finanziamento regionale, vai lì, ti fai dare i soldi e nel piccolo comunello fai una cattedrale, cioè cos'è, una moschea, una chiesa, no, è un bocciolo. Ma la gente, una volta nel mio paese, vengo dalla provincia di Brescia, le persone diciamo di una certa età, tipo la mia, così, andavano dove c'è il bar, dove c'è l'osteria, e vicino c'erano delle... e giocavano a bocce, fine, non c'è... Ovviamente quando pagano gli altri tu fai spese anche più folli. La fortuna dei sistemi diciamo più tradizionali come quello svizzero è che i soldi spesi dal comune a Viganello sotto il comune, insomma diciamo a, boh, non so, a Bellinzona, sono presi dalle tasche dei cittadini di Bellinzona. Allora i cittadini di Bellinzona guardano quello che fa il comune e se quelli fanno un boccio di roba lo prendono a calci del sedere, scusate, ma per tutti questi soldi per una cosa di assoluto non interesse per tutti noi. E non solo c'è questo, c'è il problema della responsabilità, ma c'è anche il fatto che tutti sanno in Ticino qual è il moltiplicatore del comune, perché se io devo dare 1000 al cantone il comune deve scegliere o 0,7, o 0,8, o 0,75, devo dare 750, ma nel comune vicino danno solo 700. Allora io dico, ma perché tu hai fatto? Perché devo fare? Allora, se mi dai dei buoni motivi, bene, se no io cosa faccio? Cambio comune, o cambio anche cantone, vado a Uri perché la tassazione è più bassa. E questo meccanismo di concorrenza fa sì che la Svizzera sia ancora paese a più bassa tassazione, più bassa regolazione, dove ci sono meno sprechi. E guardate, quello che fa impressione, per chi come me è lombardo, e che sono lombardi anche i ticinesi, eppure cose completamente diverse. Il caffè è buono, si mangia come se si fosse in Italia e così via, però sono diverse, le istituzioni pesano tanto. Allora io credo che loro hanno avuto la fortuna, dopo Marignano, casi della storia, come il Veneto è finito di là, loro sono finiti, la Valtellina ad esempio, nel congresso di Vienna, aveva la possibilità di finire in Svizzera. Allora gli disse, preferite la Svizzera o l'Austria? Ho detto, boh, Svizzera o l'Austria, va bene, l'Austria, non sapeva che era l'Italia. Aveva questa battuta. Ma io ne approfitterei per, ho sentito qualche, se permette Carlo, se c'è qualche domanda da parte del pubblico, visto che i tempi sono quasi maturi. Comunque sapevo che ci sarebbe stata, quindi sono andato a colpo sicuro. Vittorio o Silvio? Sì, diciamo che una domanda da un punto di riflessione, no? Visto che io lavoro, cioè, lavoro in, sono abbastanza giovane, però ho sempre lavorato in azienda, mi sono reso conto negli anni vedendo aziende piccole, o io ho lavorato sia in una multinazionale che in un paio di aziende piccoline, e mi sono reso conto che comunque sia a livello di piccola azienda che a livello di grande azienda, la tendenza quando si passa un po' di tempo è la burocrazia che cresce. E quindi probabilmente, cioè, c'è un bel parallelismo da fare con quello che accade a livello di Stato, cioè forse è inevitabile che a un certo punto a qualsiasi livello, a qualsiasi confine di gruppi di persone, si arriva in un certo momento, per ragioni che forse non è neanche semplice spiegare, a creare sempre più sovrastrutture, procedure, regole di vario tipo, perché poi in fin dei conti se queste strutture poi collassano con se stesse, con il peso, è Dio e Dio, perché se non ci sarebbe mai concorrenza, non cambierebbe niente in qualche modo. Sì, reagirei subito. Sono d'accordo, sono proprio d'accordo, nel senso che non è sempre vero in economia, attenzione, che piccolo è bello, in economia dipende, ci sono tutta una serie di prodotti che non possono essere realizzati da piccole imprese, esigono, ci sono qualche volta delle economie di scala, indubbiamente, no? Però è vero che anche quando abbiamo a che fare con economie di scala, dobbiamo calcolare che ci sono dei benefici legati a economie di scala, se voi fate il Boeing ha bisogno evidentemente di capitali, dimensioni, eccetera, perché sono superiori a comunque ai costi che mi derivano da quello che diceva lei. Dalla burocratizzazione che fatalmente ti dà la possibilità di individuare delle posizioni in cui lavori o non lavori, in cui comunque il sistema di controllo è pesante e così via. Questo del piccolo e bello non è sempre vero nelle imprese, secondo me è sempre vero nella politica. Nell'ambito istituzionale invece sono davvero convinto che, con una difficoltà naturalmente, sono convinto che quanto più a noi avviciniamo le persone ai governanti, tanto più i governati governano i governanti. perché sono in grado, con la facilità di movimento, di scelta, eccetera, di condizionare il comportamento. Quello che avviene in un sistema, come dire, a potere molto localizzato, è che la possibilità per le imprese, per i cittadini, per i capitali di muoversi, vincola a tal punto i governanti che sono governati dai governati stessi, a parte il gioco di parole. Quindi il modello svizzero. Il modello svizzero, il modello di un localismo spinto. Il modello svizzero originario, perché oggi anche la Svizzera sta conoscendo una lenta ma trasformazione in senso normalizzatore, perché poi le idee contano tanto. E quali lingue parlano gli svizzeri? Parlano pochi l'italiano, per la fortuna, un po' di più il francese, già un guai, e moltissimi parlano tedesco. E sapete su che libri di storia studiano, ad esempio, in Ticino? Sui nostri. Potete immaginare, tra l'altro, quando me l'hanno detto sono stato scioccato, perché per lui che viene in Svizzera a leggere i libri di storia italiani, fatti tutti da marxisti praticamente, deve essere un'esperienza veramente strana, deve essere una sorta di... Però ecco, in politica piccolo e bello, con una difficoltà, che il piccolo deve accompagnarsi alla capacità di coordinarsi con gli altri. Il fallimento italiano nascimentale, diciamo, è legato al fatto che gli italiani non seppero, come dire, articolare tra di loro, diversamente dalla Lega dei Greci contro i Persiani, perché c'è un po' degli esempi di successo invece, un meccanismo reattivo difensivo, perché il problema militare è un problema serio. Però anche dal punto di vista militare, quanti benefici tu ricavi dal fatto di essere piccolo? Tantissimi. Ad esempio, le piccole realtà non sviluppano logiche nazionaliste, non sviluppano logiche imperiali. Non è un caso che la Svizzera, non è del tutto un caso che la Svizzera sia neutrale. E quindi, ad esempio, diciamo una cosa molto banale, a mio parere, ci sono meno rischi che esplodano bombe di islamisti radicali a Zurigo che non a Parigi. Perché quando Olanda ha detto siamo in guerra, secondo me in Siria un po' hanno riso, perché un po' che ci mandate le bombe, avevamo percepito che di essere in guerra già da prima, ecco, non è che sia, ecco. Cioè, quando tu hai una politica estera attiva e i paesi più grossi sono più ovviamente politica attiva, chiaramente la Svizzera è rimasta fedele alla logica, a mio parere, in ambito di relazioni internazionali, del liberalismo classico, la dottrina Washington-Jefferson, dottrina isolazionista. La difesa serve a cosa? A difendere. La difesa serve a difendere e non c'è motivo di andare a esportare la democrazia, a difendere gli ultimi anni. Chiunque può andare se vuole, i volontari sono sempre ben accetti, se vuole, ma non è compito, diciamo, dell'organismo statuale quello di andare in situazioni complicatissime, che non sappiamo quali sono i mujahideen buoni, quelli cattivi, la tribù, eccetera, andare a... Ecco, io credo che quello che dice lei è giusto, e in politica ancora di più. In politica ancora di più, perché non solo non sviluppiamo il nazionalismo, ma tendiamo a essere molto più aperti, integrati al mondo quando siamo piccoli. Un piccolo paese, tra altre cose, non è mai protezionista, non può esserlo. È un paese molto più globalizzato, perché dipende troppo dall'estero. In Svizzera non si fanno automobili, eppure vi assicuro, ho visto belle automobili, bizzarramente, ho preso Ferrari, eccetera. Fanno soldi, molti soldi comprano automobili, ma non possono immaginare di essere autarchici, come avrebbe detto Mussolini, o di essere antiglobalizzazione, come si dice oggi, volendo dire la stessa cosa. È bizzarro che non si rendano conto che stanno ripetendo vecchi slogan del ventennio. Quindi davvero, allora, vicinanza, poca burocrazia, permeabilità, concorrenza, ci sono davvero tantissime responsabilità, ci sono davvero tantissimi benefici. C'è una sorta, in qualche modo, localizzando, di simile mercato che emerge con tutti i benefici del mercato nell'ambito della politica. E non è un caso, ci pensate, che nell'età medievale il podestà non era della città, era un professionista che veniva d'altrove e che c'era una logica, appunto, diciamo, come fosse oggi si chiamano civic manager, qualcosa di simile, eccetera, che era servito perché era un professionista, eccetera, perché non c'era la logica della nazione, eccetera. Se era Firenze veniva uno da Bologna, se era Genova veniva uno da... Va bene. C'è qualche altra domanda? Una domanda? Prego. Prima di tutto condivido la tua disamina storica e mi piace molto come mi è piaciuto il suo libro, soprattutto quando parla della contrapposizione tra il diritto individuale e il diritto sociale. Il primo considerato, direi, una forma, un aspetto formale, secondo me. Sostanziale. però anche per mia formazione volevo viceversa scomodarla su un fatto diverso, di tipo antropologico e meno storico. Antropologico che coinvolge con gli effetti psicologici di uno Stato come il nostro, che è uno Stato molto strano, e un popolo come il nostro che è altrettanto strano, se non di più, rispetto allo Stato. Tant'è vero che lei ha detto, fatto lo Stato bisogna fare gli italiani, e dubito che gli italiani siano ancora fatti. Tant'è vero che dal punto di vista storico e dal punto di vista meglio ancora, come dicevo prima, antropologico, assistiamo a questa contraddizione in Italia, dove da una parte c'è un popolo italiano che è profondamente individualista, individualista così nei discorsi, individualista nel lavoro, individualista nelle opere e individualista così nei progetti. Ma di fatto, nonostante il proprio individualismo, ha accettato per una serie di problemi di tipo storico che lei ha indicato molto bene, ma di tipo anche, soprattutto psicologico, antropologico, ha accettato invece la logica dello Stato. Allora, qual è il motivo per cui l'italiano si è adattato a questa concezione del diritto sociale, di considerare lo Stato come qualcosa di immodificabile? E allora psicologicamente avanzo queste possibilità, queste possibili cause. La prima può essere la paura. L'italiano è sempre stato un popolo pauroso nei confronti del nuovo, pauroso per cui si pensa che sia preferibile stare sotto la cappa dello Stato piuttosto che rischiare del proprio. Un altro elemento purtroppo negativo potrebbe essere l'invidia. L'invidia nei confronti del vicino, il quale attraverso cose strane, che in Italia sono sempre valutate nell'ottica viceversa di qualcosa di presunto illecito, si guadagna una sua posizione che diventa motivo di invidia, appunto perché esce da quello che è l'abitudine, l'archetipo tipicamente italiano. E la terza possibilità potrebbe essere anche legata a una certa pigrizia tipica del nostro modo di fare. Per cui assistiamo a questa contraddizione, per cui l'italiano è molto votato all'individualismo nelle cose segrete, nel mercato cosiddetto, visto che parliamo di mercato nero, e viceversa a livello pubblico l'italiano lascia fare allo Stato. Però volevo scomodare da questo punto di vista. Credo che lei abbia ragione, mi trovo d'accordo, magari metterei qualche bemolle su alcune cose, ad esempio il tema dell'invidia, forse siamo meno invidiosi di altri, però gli italiani, il piatto è una malattia di tutti, perché il nostro tempo è un tempo caratterizzato dall'egualitarismo, è uno dei grandi argomenti dell'egualitarismo, l'invidia. Però noi comunque in questo paese abbiamo eletto e abbiamo votato più volte, abbiamo assessorato Berlusconi, in Francia è inimmaginabile. In Francia è inimmaginabile che la persona più ricca del paese o comunque uno dei più ricchi possa essere eletto. L'italiano in realtà è strano. Ma in Francia ha un senso dello Stato, della grande francese. Sì, però voglio dire, il francese è molto più invidioso dell'italiano. La legittimazione della ricchezza è molto inferiore. E noi abbiamo dei giornali come Capital, in cui i grandi capitalisti si esibiscono e traggono beneficio, ci sono delle figure anche, come dire, che tipo si chiama quello che ha quel grande locale in Sardegna, il Briatore, addirittura ci sono anche delle macchiette, se vogliamo, di una certa ricchezza esibita, eccetera. In Francia i grandi finanzieri sono nascosti, nessuno sa chi sono, cioè si sa chi sono, ma non si esibiscono perché non sarebbe accettato, perché davvero loro hanno introiettato la logica dell'eguaglianza, con l'egalité, no? E questo secondo me forse è il paradosso italiano è quello di un paese che in realtà ha avuto una storia molto complicata proprio interno. Io ho fatto più volte riferimento all'Italia centro-settentrionale perché l'episodio dei comuni è stato decisivo. Io credo che le due Italie esistono per una ragione molto semplice e per la colpa fondamentalmente di Normanni, Federico II e così via, che hanno costruito un potere forte impedendo lo sviluppo che pure c'era, che era Allora il sud tra l'altro era molto più sviluppato per ragioni storiche legate ai greci, ai bizantini eccetera rispetto al centro-nord, ma quando stava sviluppandosi in tutta Italia, ma Amalfi e così via, se non ricordiamo, ma Napoli faceva parte dell'Anseatica ad esempio, in una certa fase dell'età medievale, a un certo punto questo potere arriva e blocca tutto, centralizza a Palermo e poi a Napoli il potere, quindi non c'è lo sviluppo tardo medievale, rinascimentale che sono nel resto, e da lì abbiamo due Italie. Ma comunque l'Italia che nell'insieme genera comunque tante cose, no? Che è un paese molto dinamico e così via, ed è un paese molto differenziato al proprio interno, con tutto che ha una consapevolezza anche di una certa omogeneità. L'italiano è sempre stata lingua franca, la lingua della letteratura e così via. Io che adesso vivo a Venezia mi sto occupando un po' per curiosità di una serie di cose. I veneti hanno sempre usato anche l'italiano, il veneto e l'italiano, cioè era la lingua comune, erano bilingue naturalmente, senza nessun problema, eccetera. Due lingue ufficiali proprio, ecco. E cosa ha adottato però? Il modello giacobino. Noi abbiamo i prefetti, abbiamo queste logiche, e quindi abbiamo sovrapposto a un sistema, come dire, tutto diverso, un qualcosa che non sta assieme. Quindi certamente, quello che ce l'è è vero, c'è una dimensione di paura, di incertezza riguardo il futuro, c'è questa dimensione della pigrizia, c'è anche un cattivo individualismo però nell'italiano, perché a me veniva in mente quando lei mi cercava di portare su un piano che faccio fatica a seguirla perché so davvero poco su questa, diciamo, dimensione antropologica, psicologica, però a me veniva in mente come, prima ho citato Mosca, un'antologia, non è un'antologia, un libro composto di più capitoli, scritto da un autore che poi darà vita al movimento nel conservatorio, James Barnum, dedicato alla scienza politica italiana, fu chiamato I Machiavellici. Parlava di Pareto, cioè su cosa riconduceva in qualche modo l'italiano? Al cinismo in definitiva, cioè un individualismo un po' in senso deteriore. Cioè non già solo abbiamo l'individualismo di chi dice io voglio vivere da me, voglio essere libero, cioè, ma anche l'individualismo di chi si trova benissimo in un sistema di welfare state, se riesce a farsi dare la concessione per autostrade, per 8 anni e farci anche i grandi autogrill e così via. Cioè vuol dire, è un individualista anche cinico, è anche l'individualista, è il nostro sistema, il chronic capitalism, noi ci siamo benissimo in questo, no? Anche il capitalismo corrotto. Quindi c'è anche questo, no? Abbiamo sviluppato anche, e forse parte del nostro sguardo disincantato. Non è un caso appunto che il più grande contributo teorico su questi temi sia legato a Machiavelli, cioè colui che ha detto, guardate, c'è una morale per la gente comune e poi c'è la morale invece del principe, tutti noi ci cosiamo un po' al principe e ci asteniamo da rispettare la morale degli altri e anteponiamo appunto il nostro tornaconto a... E quindi questo forse è un vizio antropologico, culturale di tutti noi. Prego. Ho parlato quindi del fallimento dello Stato moderno, no? Quindi le possibili riprese diciamo, di sistemi feudali, e in questi contesti ci sono anche alcuni che parlano delle comunità volontarie che si arrivano attraverso contratti di diritto privato. Potrebbe essere una soluzione e come si potrebbe sviluppare un concetto che oggi, come oggi in Italia, fa fatica fisicamente a essere pensato se non in piccolissime realtà. Esattamente, cose molto marginali. Mentre negli Stati Uniti ci sono in realtà milioni di persone che si autogoverno. Esattamente. Sì, l'idea è quella, l'America ha una storia completamente diversa, no? Gli americani, cioè gli europei arrivavano là con l'idea di spesso all'inizio di trovare un mondo diverso, però in genere anche dissidenti religiosi, quindi non volevano vivere secondo il vecchio sistema, il vecchio diritto, il sistema di common law, volevano creare una società nuova basata sulla Bibbia, sulla lettura della Bibbia, potevano essere quaccheri, potevano essere anabattisti, eccetera, e creavano delle città, ed erano città che in qualche modo erano naturalmente tipo volontari, erano delle comunità che si trasferivano. E poi arrivarono i socialisti, gli utopisti, i furreristi, eccetera, e fecero queste cose. E in questo sistema a un certo punto sono iniziate a nascere anche delle risposte di mercato al problema della città. Non dimentichiamoci che l'America ha una caratteristica, perché c'è stato qualche volta, e non sono mai stato tra l'altro nella parte ovest, che addirittura esatto, è vuota l'America, cioè l'America uno viaggia, non ha niente, poi c'è una città, poi viaggia, ora, cioè, non è come da noi che è tutta una fabbrichetta. E quindi là mi dico, vabbè, c'è un problema, fai la tua città, vuoi vivere secondo una logica, e in questa maniera, come diceva giustamente lei, cosa è successo? È successo quello che da noi è un condominio che si occupa della pulizia delle scale, dell'ascensore e del verde, là si può occupare scuole, servizi antincendio, sanità, eccetera, sono davvero vere e proprie città private che sono, come dire, su base consensuale, se vogliamo di adesione, non c'è più contratto, è l'idea di una qualcosa di simile alla dimensione contrattuale, e che hanno avuto un grande successo e che continuano a crescere. Ed è, secondo me, questa davvero un'ipotesi molto interessante. No? Alcune di queste città che non sono riuscite a fare, sono riuscite addirittura a ottenere uno sconto della tassazione per i servizi dello Stato, perché producono da sé tutta una serie di cose. Se questa logica dovesse svilupparsi, voi capite che avremmo davvero, come dire, delle possibilità nuove, no? Perché quando alla fine noi controlliamo il territorio, controlliamo tanto, tutto passa. C'è un mio amico, se avrete degli incontri in futuro su questi temi, è affascinante nel modo in cui racconta le cose, ma Stefano Moroni, che insegna etica dell'urbanistica a Milano, a Politecnico, è molto studiato queste cose, giustamente dice, guardate, non sottovalutiamo il tema del territorio, chi controlla il territorio controlla tutto, perché tutto poggia sul territorio, e quindi la pianificazione urbanistica è cruciale. In America, come dire, ci sono ancora spazi che non ci sono, da noi purtroppo queste soluzioni tecnicamente sono impossibili, ci sono delle molto imperfetti tentativi, Loggiata o Milano 2, queste cose qua, o qualcosina, che erano dei tentativi di dire, beh, noi ci possiamo questa cosa, ma le limitazioni di legge sono enormi, soprattutto poi non ha nessuna riduzione degli oneri, cioè per cui paghi due volte, è un po' come il lusso di andare a una scuola privata, che è una cosa molto bella, ma devi pagare da un lato la scuola pubblica e poi devi pagare anche la scuola di tuo figlio. C'è qualche altra... Dai. Riccardo? Volevo chiedere, visto che ha fatto riferimento sui paesi, diciamo, che stanno sopravvivendo da un certo punto di vista, come la Svizzera e l'altro, quindi volevo fare una domanda legata un po' anche al futuro dell'Europa, eccetera, come vede lei i paesi dell'est Europa, che diciamo da uno stato sicuramente più povero, adesso vedo che stanno acquisendo una posizione sempre più rilevante, che stanno anche coraggiosamente, diciamo, opponendosi a certi diktat sul sistema di immigrazione e quant'altro, e poi stanno adottando anche una politica fiscale anche aggressiva, no? Dal punto di vista del portare aziende, ricchezza, eccetera. Quindi io però non ho idea di come siano dal punto di vista economico, del welfare state, eccetera, perché non conosco gli ordinamenti di questi paesi, appunto, dal punto di vista sanitario, eccetera, però mi sembrano senz'altro molto più dinamici oggi rispetto a quella che è, diciamo, la tradizionale Europa occidentale, quindi in particolare Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma anche paesi forse anche un po' più poveri come Albania, eccetera, eccetera. Allora, questi sono paesi che hanno avuto problemi immensi, naturalmente. Il caso dell'Albania addirittura è un caso terrificante, perché è un paese totalmente chiuso, di osservanza maoista, eccetera, quindi non aveva nemmeno rapporti con gli altri. Ci sono episodi anche molto ridicoli che mi raccontavano di alcuni militanti di un piccolo partitino, marxista-leninista di fede cinese, che vengono invitati un'estate a passare un mese in Albania, arrivano lì, ma no, ragazzi anni 70, questi li vedono con i jeans, eccetera, dicono, guardate, voi state mandando dei segnali troppo negativi, dovete vestirvi da albanesi prima di entrare, vennero, come dire, e questi ebbero uno shock, naturalmente, perché sono stati di fede anche maoista, ma insomma, sembravano ancora... Quindi hanno avuto davvero esperienze terribili alcuni di questi. Però da cosa sono usciti? Sono usciti da un sistema di quel tipo con dei vantaggi, in un certo senso. Cioè, il sistema sovietico in generale, il socialismo reale, era un sistema che si basava sul controllo diretto dei mezzi di produzione, e quindi ad esempio non si basava sulla tassazione, sono, hanno in qualche modo dovuto in senso proprio inventare una tassazione, no? Perché ovviamente si tassa l'impresa privata, si tassa i redditi privati, ma dove tu non hai un certo tipo, e hanno anche capito naturalmente meglio di altri, in virtù dell'antisocialismo che hanno sviluppato le loro elite, alcune di queste almeno, fa una certa impressione sentire uno come Martelar, che invitavamo anche come IBL, eccetera, a dire che lui, che non so, che era, non so più che professore, era un professore, ma di un ambito totalmente lontano dall'economia, dice: ma io non so nulla di economia, ma ho letto Milton Friedman e quindi ho pensato che avesse ragione, ho impostato il mio governo sulla base di Milton Friedman. Cioè, in Europa era una cosa immaginabile che un francese o italiano dicesse che ho letto Milton Friedman. Quindi ha fatto l'anticomunismo, li ha portati ad andare a cercare degli autori, diciamo, come dire, che fossero coerentemente avversi a certe logiche. Il fatto di uscire da un sistema in cui la tassazione non c'era gli ha dei vantaggi. Quello che dice lei, immigrazione, eccetera, sono anche meno prigionieri del nostro politicamente corretto, una serie di cose, cercano di essere in qualche modo in una serie di ambiti molto più realisti. È vera una cosa, meglio due che sono dei problemi. Primo è che il comunismo però in tanti casi, penso al caso della Romania, penso al caso della Romania, eccetera, ha prodotto una decivilizzazione rilevante, cioè una perdita di... E quello ci vorrà del tempo, naturalmente. Le cose migliorano, l'uomo è molto plastico, sa, da una generazione all'altra le cose cambiano velocemente. Però pensate, mi ricordo negli anni Ottanta di aver incontrato, avevo aiutato, allora facevo parte della Gioventù Liberale, un ragazzo romeno che era scappato, ha fatto una serie di cose strane, aveva partecipato un po' come fosse Renzo, nel Benzio Sposi, una rivolta, non sapeva niente, era lì, veniva dalla campagna, però ha saputo poi che lo fotografavano e quindi aveva dei problemi con la polizia romena, e poi riesce a scappare, arriva a Brescia, può andare in Canada, gli dico: ma cosa hai detto ai tuoi genitori, così, però è scappato via. Gli ho detto: ma io non ho detto niente. Ma perché non ho detto niente? Avevo paura che mi denunciassero. Capite che quando una società arriva a questi livelli, il senso della fiducia... Un altro episodio carino in questo senso, una mia amica che tra l'altro ha sposato quello che adesso è un console polacco, tra l'altro è console polacco a Kiev, ma adesso non è più console, lì è l'ambasciata di Kiev, insomma comunque lui come grado sarebbe console, ma lavora all'ambasciata. Lei lavorava già in Polonia prima dell'89, eccetera, faceva traduzioni. A un certo punto una ditta italiana arriva là e lei e due altre tre traduttrici dice: beh, facciamo una cosa, lavorate molto per noi, a noi fa molto piacere se utilizzate questa stanza, che è tanto per noi di più, però per noi è molto comodo avervi qui, così non avete il costo delle traduzioni. Per far firmare questo contratto, avessi un accordo, ha dovuto sudare sette camicie questa mia amica, perché c'era una totale sfiducia nei confronti, un'incapacità a contrattare, un'incapacità. Quando viviamo in una società regolata perdiamo l'attitudine al commercio, all'intesa, quindi hanno dovuto superare tante cose, questo primo punto. Secondo punto, sono sul piano inclinato, nel senso che loro che cosa considerano moderno? Noi purtroppo, in molti casi. Loro tendono a volere in qualche modo replicare. E terzo elemento aggiungerei, in qualche caso questo processo è accelerato dal fatto che sono beneficiari netti in maniera molto rilevante alcuni di questi paesi dell'Europa. Credo che il 20% del bilancio bulgaro, dello Stato bulgaro, siano trasferimenti europei. Capite che cioè, si costruisce in maniera artificiosa un parassitismo che non promette bene. Però è vero che hanno degli istinti tante volte molto positivi. I paesi ovviamente che vanno meglio sono la Polonia, sono la Repubblica Ceca, ma anche la Slovacchia, e lì le cose... Io sono stato comunque anche in Albania, che è fuori dall'Unione Europea, eccetera, e comunque fa impressione come stanno progredendo, fa davvero impressione. È un'altra Europa, c'è da chiedersi cosa farà questa Europa, pensando anche a governi come quello polacco, quello ungherese, se dovesse esserci la Brexit, ad esempio. Se dovesse venire meno l'idea di una unica Europa, con un'unica possibilità di stare in Europa. Non dimentichiamo che loro aderirono all'Europa, tutti questi paesi, per una ragione molto semplice, che si chiama Unione Sovietica, specialmente Russia. Cioè loro dicevano: io devo passare di là a tutti i costi. Passare di là vuol dire nato primariamente, però insomma non si sa mai, voglio dire, anche se sono nato in Europa, eccetera, tutti i bollini, sono sicuro. Ma nel momento in cui il problema della sicurezza fosse risolto semplicemente alla NATO e per ipotesi emergesse una seconda Europa. Sapete, negli anni 70 aveva un certo peso l'EFTA, che adesso è una cosa molto residuale, c'è dentro la Norvegia, la Svizzera, l'Islanda, niente, insomma, pochi paesi, ma negli anni 70 c'era dentro il Regno Unito. Se ci fosse la Brexit e una seconda Europa che vuole pigliare solo il buono, il libero mercato dell'Europa, l'apertura delle frontiere, eccetera, e vuole lasciare fuori le direttive, tutto questo, chi lo sa, può darsi che alcuni di questi paesi sentirebbero più a casa loro assieme agli inglesi e agli svizzeri che non assieme ai tedeschi e ai francesi, lo sappiamo, non lo so, è difficile dire. Riccardo. Sì, secondo punto del complesso di priorità dell'Italia verso i paesi nordici. Molti storici danno la data limite al Concilio di Trento, quando l'Europa, il mondo occidentale si divise in due sostanzialmente. Il mondo cattolico, conservatore, che ha fatto applicare, intanto un po' italiano, da qualunque attitudine al governo. Un po' parliamo di America, c'è l'America del Sud, che è la parte che è rimasta della parte della controriforma, diciamo così. Vorrei sapere la sua opinione riguardo. Sono un po' perplesso di fronte a queste cose. Mi spiego. C'è un'area che viene chiamata da alcuni storici banana di Lotario, che è un'area chiamata così perché quando dopo Carlo Magno c'è una sorta di divisione dell'impero, di competenze, eccetera, finisce in mano a Lotario. Quest'area sembra essere, grosso modo, l'area più dinamica da secoli e secoli e secoli. E che cosa include? Banana è una forma un po' di banana. Che cosa include? Include paesi come area, meglio se andrebbe detto, come l'Italia del Nord, la Svizzera, la Baviera, poi il Belgio, l'Olanda. Se guardate in quest'area, la quota di cattolici è molto alta. Se guardate la Germania, l'area più dinamica in realtà è la Baviera. L'area più ricca è proprio la Baviera, che è, con qualche eccezione come Norimberga, però largamente, maggioritariamente cattolica. Per cui sono molto bello. Io credo che quello che c'è lei sull'America Latina è verissimo, ma qual era il tratto veramente forte sia della Spagna che del Portogallo? Il mercantilismo, l'assolutismo, che non è invece, qual è il tratto invece caratteristico, diciamo così, dell'esperienza inglese? Nel 600 la resistenza all'assolutismo, fanno due rivoluzioni, uno uccidono direi addirittura, per cui, come dire, c'è qualcosa di molto diverso, no? Credo che lì c'è il dato cruciale. Certamente il cattolicesimo, dal punto di vista sociale e politico, in varie occasioni ha giocato contro le libertà, ma il protestantesimo anche. Il protestantesimo, e noi abbiamo, non dovremmo avere un complesso di inferiorità nord-sud, semplicemente dobbiamo pensare a cos'era, in certi effetti anche cos'era la Danimarca, ad esempio, voglio dire quando Shakespeare ambienta l'Amleto lo fa perché vuole prendere l'esempio di un'area, insomma, del marcio in Danimarca, insomma, no? Cioè, noi dovremmo pensare in realtà che la legittimazione del capitalismo, eccetera, è avvenuta ben prima dell'epoca della riforma e controriforma, è avvenuta all'interno di un dibattito teologico molto sofisticato, tra l'altro molto, qualche volta arzigogolato, un po' barocco, tutto di teologi. Cioè, io insegno a Siena e San Bernardino da Siena teneva le sue prediche lì in Piazza del Campo, in una città di mercanti, e capiva che non c'è nulla di assolutamente criminale nel comprare profitto, l'usura, affittare il denaro come si affittano le case, eccetera, e usando, senza mai citarlo, un francescano che l'ha condannato, Jean Pierre d'Olivier, però usa tutti i suoi argomenti e legittima progressivamente. Quindi, in realtà, e quando guardate Monte di Paschi, a parte gli ultimi casini, eccetera, c'era stato appunto di Salusto Baldini davanti a questa sede ed era appunto un prete che si occupava di queste cose. Cioè, il cattolicesimo, per secoli, anzi, la riforma, se ci pensiamo, fu la reazione per tanti aspetti di un prete, come dire, ottuso in un certo senso, che veniva da un mondo un po' chiuso, che arriva a Roma e vede tutti questi cardinali, papi con amanti, i quadri pieni, donne nude, eccetera, e rimane scioccato da questa corruzione, se vogliamo, eccetera, ma anche da questa liberalità. Ed è una reazione fondamentalista all'interno della cristianesima, che poi produrrà anche degli aspetti liberali, perché crea una complessità di religioni, crea una varietà, crea anche, condanna anche tutta una serie di cose oggettivamente corrotte, la vendita dell'indulgenza, eccetera. Però, diciamo, la Roma che Lutero vede, che condanna, è una Roma che lui condanna perché è troppo liberale, è troppo aperta. Io lo dico sempre, no? In un'Italia che ha voluto proibire la prostituzione con la legge Merlini, che nella Roma dei papi c'era pieno di case di tolleranza, perché i papi non hanno mai pensato per secoli e secoli che i vizi fossero crimini, che è un principio, secondo me lo pensava anche San Tommaso, che i vizi fossero crimini, e che, perché pensava che l'uomo fosse posto di fronte al bene e al male e non stava, come dire, all'autorità civile di dirgli cos'era bene e cos'era male. È stato un bel discorso storico stasera, è stato molto interessante, non ho sentito parlare di destra e di sinistra, mi ha fatto molto piacere, si è parlato di riforma, di controriforma, di occidente, penso sia stata indubbiamente interessante la serata, poi penso che le considerazioni si potrà produrre ancora. Mi piacerebbe sapere una cosa per concludere, magari per un arrivederci. Quando uscirà il libro sulla Svizzera? Perché esce ottobre, federalismo, autonomie, nazione armata, l'idea svedica di libertà dopo lo Stato moderno, punto, sottotitolo dopo lo Stato moderno. Un'idea elvetica di libertà. Quello che cerco di sottolineare è che la Svizzera ha conservato tutta una serie di cose. Vi do ad esempio questo dato che mi ha molto colpito: l'80% del territorio del Canton Ticino è ancora oggi nelle mani dei patriziati. Cosa sono i patriziati? Quelli che da nostre parti sono le vicini, gli uti civici, eccetera, cioè le assemblee dei discendenti comunali, ma non dei comuni. Che comune sì, comunelli, il comunelli, esatto, di montagna. L'80%. Cioè, c'è anche il confine d'Ampestre. Ecco, esattamente quelle cose che ancora sopravvivono. Ecco, è un paese, come dire, in cui lo spazio di ciò che è condiviso non necessariamente è diventato pubblico, ma è rimasto in una forma un po' particolare nelle mani appunto della società. Dei proprietari. Anche tra Farini e Ferriero c'è ancora un esempio di comunello per la gestione di bosco. Esatto. Però in Italia c'è stata una legge per l'abolizione degli usi civici. Ho riferimenti anche delle. Ci guardiamo. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei il professor Lottieri e gli farei un sincero applauso. Sarebbe come nascondersi dietro un dito, ovviamente, non dire che il pensiero libertario è quantomeno nelle nostre intenzioni, nelle fondamenta della nostra associazione, come uno dei principali punti di riferimento. Ed è raro, credo, trovare pensatori, persone così lucide nell'affrontare temi così delicati. Penso che l'aspetto più significativo che potremmo portarci a casa, al di là delle considerazioni che poi ciascuno dentro di sé o anche esternamente ha fatto, è che lo Stato e la statualità come la stiamo vedendo e l'abbiamo conosciuta non è l'unico modo per poter organizzare l'ordine politico. Esatto, e per quanto questo sia travolgente è però una verità. Grazie professor Lottieri, sarà spero il nostro ospite ancora nei prossimi mesi o quando sarà, e tornerà a Piacenza. Grazie a tutti per essere intervenuti. Stacco qua. Thank you.